Ora la situazione sta generando troppo e stanno facendo tanti abusi, anche di leggi italiane, dal corte costituzionale, diciamo così, che ci sono persone che sono malati, che ci sono persone che senza fegato, cioè, uno senza rene e l'altro nigeriano che ce l'ha 10 giorni di sciopero della fame, che si chiama Mike. E siamo in situazione disperata. E stanno abusando di tutti i modi e ci abbiamo anche un ragazzino che ci hanno picchiato e ci hanno messo da parte e aspettano fino alla notte che chiudano i settori, così fanno entrare, perché sanno che di già quanto si entra questo ragazzo massacrato praticamente di botti tutta la mattinata, succede un problema. E ti passo la parola a un nigeriano, ecco, per fare capire la sua situazione, che da 10 giorni in sciopero della fame. Sì, sono io, un nigeriano, si chiama Dan Mike, capito? Sì, c'è la famiglia Mumia qui, i due figli, capito? Ha fatto sopra di fame oggi 10 giorni, per loro fanno uscire qui, perché c'è la due figli qui. Loro ancora non c'è niente, capito? Capito? Due mesi fa, il mio avvocato ha detto ha fatto appello, fino ad oggi non ha fatto niente, non ha fatto niente, mio fanno sta Francia, loro stanno qua quasi 2 mesi, capito? Viene qua sempre al colloquio, no? Mio bambino, uno hanno 10 mesi, uno ha 6 anni. Cosa dice la cooperativa Auxilium e le Ah, forze dell'ordine? loro hanno detto qui, ha detto vai a mangiare, fa 2 o 3 giorni e ti lascia. Io ho detto no, non voglio mangiare niente, io non voglio mangiare niente, no, è meglio morire qua, perché io non c'è motivo per lasciarmi qua. Motivo se tu non vuoi lasciare documenti, dammi un po' di via, perché mia moglie ha già fatto processo, il mio documento alla Francia. Così ha detto al partito giudice. Fammi dare il problema di via, io devo andare alla Francia per prendere il mio documento, perché c'erano due figli là. Lui ha detto no, non si fa, rimane qua, rimane qua. Quasi 3 mesi stai qua. Però il processo è perché. Sì. Pronto? Sì. E allora, adesso ci spiegava il ragazzo il motivo per il quale è in sciopero della fame da 10 giorni. Sì. E io oggi sono andato al psicologo, c'era una ragazza, io l'ho detto francamente, direttamente. La situazione questa, la Oxolemo, come si chiama questa, non sta aiutando per niente. Ci stanno parlando come, io già l'ho detto che stanno parlando come sono poliziotti, non sono come erano prima le Croci Rosse, capito? Come non ce l'abbiamo nessun appoggio. Ora, già tutto dall'altra parte, cioè la polizia, il dottore e l'Oxolemo, tutti si stanno prendendo in giro. Tutti stanno insieme, anche gli avvocati loro dell'ufficio e anche i giudici, si stanno comportando male. Praticamente oggi il ministro dell'interno sta andando a Bruxelles a parlare per i cadaveri che sono nella parte dell'isola di Sicilia, no? Mentre stanno mettendo le tombe, siamo noi qua, siamo in cimitero proprio, cioè stanno mettendo dei pazzi, stanno mettendo questi che già. Non devono essere, che ci fanno motivi di saluti, che ci fanno, non lo so, ora diciamo, non lo so con questa situazione dove possiamo arrivare. E di più ci mettono ora a picchiare le persone, mi sembra non siamo a un paese libero. Non ci sta la democrazia in questo paese, ci sta solo una cosa, che dobbiamo fare quello che lo vogliono loro e basta, è questo. Tu mi Pronto? dicevi poco fa che ci sono molte persone che non stanno bene di salute. Sì, ci sono di persone che prendono, qui si portano le persone che hanno problemi anche mentali, no? E ci bottiscano di medicina finché il punto che non capiscano nulla. E c'era anche una cosa, ieri io ho parlato anche con il dottor Maurizio, questa che è responsabile del medico, diciamo che il dirigente sanitario, no? Lui praticamente si bottisce le persone con le medicine sapendo che quelle persone non devono essere qua con noi. Perché questi sono pericolosi sia per noi sia per loro stessi e ci stanno abusando anche delle altre persone, che già ce l'abbiamo un altro che ce l'ha senza mensa e senza rene. è visato a sciopero della fame ora da 3 giorni. Ed è gravissimo, e non, lui non dovrebbe stare lì dentro nelle condizioni. No, no, no, l'articolo 11 delle corti costituzionali vieta di stare in carcere e anche in CIA. E ora ho saputo un'altra cosa, che c'era una ragazzina di 14 anni dall'altra parte. Capito come no, ora? Le femminile. Sì, minorenne di 14 anni. E non lo so se per ora prendono un provvedimento, prendono quello che... Ha capito la situazione dove siamo? Non lo so, il dottore che l'ha fatto entrare, non si vede una ragazzina di 14 anni? Non capisci? Capito com'è? Ma basta che loro ci mettano le persone dentro, non se ne fregano proprio niente. Siamo ora già una merce per loro, è una merce preziosa, ecco, diciamo, parliamo di già chiara la cosa. Sì. In questo momento... Voi state aspettando innanzitutto di rivedere questo compagno di prigionia? Sì, da stamattina. Sì, da stamattina non sappiamo niente di lui, non hanno fatto vedere proprio. L'unica cosa che sappiamo è certa che hanno massacrato dei botti. E dopo l'hanno detto, tu non fai la denuncia, ti facciamo uscire il mese prossimo. Questa è l'unica notizia che ce l'abbiamo. Noi aspettiamo di vederlo, questa persona, come sta, male, non male. Perché questa prende un po' di metadone, no, è un tossico dipendente. Si buttiscano di medicina e con il metadone, finché lui non capisce nulla e quando parla una parola in più, lo massacrano. Questa è la legge italiana? Noi speriamo con il vostro appoggio. E spero di Dio che c'è qualcuno in questa Italia che può ascoltare il nostro grido, perché noi qua non ce l'abbiamo nessun tipo di dignità, né umiltà, né niente, né del diritto umano, quello che c'è scritto, o la legge uguale per tutti, non esiste, siamo in situazione proprio nel peggior modo possibile, viviamo peggio delle cani, peggio degli animali, peggio. Speriamo che qualcuno può ascoltare il nostro grido, ecco.